Buonasera a tutti, inizia Azzardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E vi ricordo che questo programma è ovviamente in diretta, come già detto, e andremo avanti fino alle ore 21:30 e partiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines ed è la sigla iniziale di questa trasmissione che è Azzardis Magnetics e va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E chi è nelle zone ci sta ascoltando sui 90 MHz, dopodiché c'è anche, volendo, l'ascolto in streaming, basta navigare sul sito di Radio Onde Furlane e ci trovate. Bene, ora andiamo invece a altra cosa che magari tendiamo a non dirlo, o almeno non lo faccio io all'inizio quasi mai, di dire che questa trasmissione è condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e del Friuli, Ora andiamo all'ascolto di questa band che magari più volte l'abbiamo passata in questa trasmissione, nei mesi, negli anni, anzi direi, dato che insomma è da un bel po' di anni che questa band esiste. Loro sono di Portland, nell'Oregon, sono i Tragedy e noi andiamo ad ascoltarci dal loro ultimo album, che è datato 2018, Fury, e ci ascoltiamo un paio di brani da questo loro ultimo album. Bene, buonasera Mandy a tutte e a tutti voi che siete in ascolto su Zardis Magnetics. Un saluto anche a chi non ci ascolta in diretta, ma magari ci sta ascoltando dal blog nostro, che è zardinsmagnetics.radio.noblogs.org. Ricordiamo che ci dimentichiamo di dire di solito che abbiamo anche un canale Telegram, Zardins, e se voi vi unite al canale ricevete la notifica che il podcast è stato caricato, e quindi e poi se volete potete addirittura ascoltarlo da Telegram. Questa sera faremo degli rapidi, o meglio alcuni aggiornamenti sulle operazioni repressive, nel senso che non è che ci siano nuove operazioni repressive, ma quelle che sono già in essere hanno, diciamo, sono arrivate degli aggiornamenti da queste ultime, in queste ultime settimane. Cominciamo con un comunicato pubblicato 3-4 giorni fa, relativo al fatto che incomincerà a breve il processo a carico di alcuni compagni milanesi accusati di resistenza e oltraggio con aggravanti per essere andati sotto le mura del carcere di San Vittore in occasione della rivolta dell'8 e del 9 marzo 2020. Vado a leggervi il testo. Iniziato il processo per la presenza solidale sotto il carcere di San Vittore durante la rivolta del 2020. È la sera dell'8 marzo quando ci giunge la notizia di proteste nel carcere di Opera. Il giorno dopo tutta l'Italia è in zona rossa, ma allertati dalla sera prima decidiamo di andare anche sotto a San Vittore. Arrivati in prossimità delle mura notiamo del fumo, sentiamo parecchio rumore arrivare da dentro il carcere e vediamo che alcuni detenuti sono sul tetto. È rivolta. Parentesi, è rivolta, è importante ribadirlo perché non è secondario il fatto, appunto, che la situazione era, diciamo, di panico in tutta la popolazione in quel momento, a maggior ragione per chi si trovava privato della libertà e recluso in una istituzione, diciamo, dove ci si trovava a 5 centimetri di distanza e non è possibile rispettare il distanziamento. Ma questo non vuol dire che diciamo, se mettiamo il carcere di San Vittore fosse grande come un raggio di San Vittore fosse grande come un campo da calcio, allora lì andava bene starci distanziati, no. Il discorso era che era piena la misura e, se vi ricordate, diciamo, quello che è stato il fenomeno di quella rivolta si è diffusa in tutto il paese, diciamo in quasi tutte le carceri del paese, era proprio il discorso di anticipare tutta una serie di considerazioni che noi altri qua fuori abbiamo fatto fatica a fare in quel momento lì dove eravamo noi sotto il panico, e invece i prigionieri detenuti, le detenute allora sono riusciti a fare in un tempo, diciamo, immediato. È rivolta. Durante la pandemia la maggior parte della popolazione ha vissuto una situazione sociale, psicologica ed economica a dir poco difficile, con misure restrittive simili a uno scenario di guerra, mentre fuori la campagna di terrore costringeva la popolazione chiusa in casa e criminalizzava ogni sorta di socialità, le carceri continuavano a essere sovraffollate. fuori a 2 metri di distanza, dentro 8 in una stanza, recitava un manifesto affisso pochi giorni dopo. Mentre i colloqui con i parenti venivano sostituiti da pochi minuti di videochiamata, la polizia penitenziaria continuava a entrare e uscire dalla struttura ogni giorno. Per la prima volta, dopo decenni, esplodevano rivolte incontrollabili nella maggior parte delle carceri italiane. La richiesta fu più che spontanea e logica. Libertà, indulto, fateci uscire. Rivolte dentro, sostegno fuori. Tornando a noi, un gruppo di solidali e parenti, appresa la notizia di San Vittore in fiamme, si raduna velocemente sotto le mura. Ad attenderli un gran numero di poliziotti, la giornata all'esterno si svolge per lo più in maniera tranquilla. Interventi, cori, battiture, musica e qualche scambio di informazioni tra detenuti e solidali. Non sono mancati anche momenti molto toccanti, come quando una ragazza incinta ha comunicato il sesso del figlio al proprio compagno affacciato tra le sbarre. Nel pomeriggio è stato anche allestito un gazebo con cibo e acqua. Finché voi starete sul tetto a resistere, noi staremo qua fuori. Durante il pomeriggio un gruppo di persone si sposta sotto un altro braccio del carcere. Lì si trova anche uno degli ingressi. Dopo qualche minuto arriva un pullman della penitenziaria pieno di uomini in divisa pronti a dare una mano alle guardie già presenti all'interno per reprimere la sommossa. Davanti all'ingresso però si trova questo gruppo di persone che viene subito spostato a manganellate dalla celere. A distanza di 2 anni, il 4 maggio, è iniziato il processo per i fatti avvenuti in quel frangente. Le accuse per 5 persone sono di resistenza a oltraggio, con varie aggravanti. Parentesi, nelle indagini preliminari pare, per degli sputi verso la celere, hanno provato a utilizzare il reato di pandemia colposa, che non è passato. Intendiamo mettere a conoscenza tutti e tutte di questo processo che riguarda una delle giornate più intense degli ultimi anni, dove in tutta Italia tantissimi detenuti hanno lottato con coraggio e determinazione per la loro libertà, subendo nei giorni successivi vessazioni, violenze e torture di ogni tipo. Ricordiamo anche i 14 detenuti uccisi in quei giorni. Per un mondo senza galere, gli imputati. A margine aggiungo che a febbraio scorso, 2022, il Tribunale di Milano ha condannato 4 dei 9 imputati detenuti a San Vittore, accusati di sequestro di persona, devastazioni, lesioni personali e rapina. Queste le accuse che sono passate, diciamo, il giudice ha deciso di condannare 4 prigionieri individuati come protagonisti di quella rivolta. Voglio fare anche un inciso: devastazioni è sempre anche questa, non ho approfondito, ma lo specifico della sentenza, devastazioni significa sempre danneggiamento. Devastazione è un reato, diciamo, è un caricare la dose da parte della controparte, no? Per peggiorare, diciamo, far fare una figura, secondo loro, di merda a questi che invece sono stati protagonisti di una rivolta. Ma voglio capire la differenza tra una devastazione e un danneggiamento, qual è, no? E va bene, questa era il primo aggiornamento. Lasciamo un po' di qualche secondo di musica, poi passo all'altra notizia. We'll be right back. eccoci di nuovo in diretta. Il secondo aggiornamento che volevo darvi è, diciamo, è una notizia che è arrivata, era venerdì. Allora, oggi è il 12 maggio, sono praticamente 10 anni che Alfredo Cospito si trova rinchiuso in prigione perché ha rivendicato lui stesso come l'autore dell'attentato al manager dell'Ansaldo. Era il 7 maggio 2012, quindi sì, l'ingegnere di Nolfi si chiamava. Venerdì è arrivata la notizia di questa decisione del ministero, dell'autorità, di comminare a Cospito, dal compagno Alfredo Cospito, l'articolo 41 bis. Che non è altro che una tortura legalizzata. Noi adesso andremo a leggervi quel poco che è uscito fino adesso, che sono tutto due comunicati. Il primo è più breve e il secondo un po' più lungo, articolato, è quello che è uscito per primo. Quindi vi vado a leggere il comunicato della Cassa Antirepressione Alpi Occidentali. Allora, Cassazione per scripta manent, iniziativa solidale a Torino. 25 maggio prossimo, la Corte di Cassazione deciderà in merito al processo relativo all'inchiesta scripta manent, processo nel quale una compagna, Anna, è stata condannata a 16 anni 6 mesi e tre compagni, Nicola, Marco e Alfredo, rispettivamente a 13 mesi, 21 mesi e 20 anni. Fra i reati per cui sono stati condannati, oltre all'associazione sovversiva e i reati fine ad essa collegati, per alcuni di loro vi è quello di strage. Come al solito, lo Stato attua la politica dell'inversione delle responsabilità, quando nella realtà è lo stesso Stato che ogni giorno commette stragi impunite nelle guerre, nelle carceri, nei mari, sul lavoro, nelle strade, in una costante pratica affermata del monopolio della violenza. Quando qualcuno prova a rompere questo monopolio, restituendo un infinitesimale, parte della violenza statale, viene duramente represso. Per questo, sotto processo ci sono le pratiche rivoluzionarie che gli anarchici e le anarchiche, e proletari e proletarie, hanno sempre sostenuto e che da sempre fanno parte del loro percorso. Dietro a questa, come ad altre vicende giudiziarie, c'è il tentativo degli inquirenti di voler rileggere sotto la loro lente di ingrandimento la storia del mondo anarchico, dividendoli in buoni e cattivi. Finalità del processo è la volontà di zittire i compagni distribuendo anni di galera. A conferma di tutto ciò, dallo scorso 5 maggio ad Alfredo è stata applicata la tortura legalizzata del 41 bis, il più pesante regime di isolamento previsto dallo Stato italiano. Opponiamoci a queste logiche repressive, rimandiamo al mittente la responsabilità delle stragi, difendiamo le pratiche rivoluzionarie. No, 41 bis, liberi, libere tutti, tutte. Sabato 21 maggio saremo in strada a Torino, ore 10, piazza Borgodora, zona Balon, Cassa Antirepressione Alpi Occidentali. Secondo comunicato che vado a leggervi, uscito appunto sul blog Fuori dalla Riserva, contro il 41 bis, solidarietà rivoluzionaria con l'anarchico Alfredo Cospito. Giovedì 5 maggio l'anarchico imprigionato Alfredo Cospito ha ricevuto notifica della disposizione nei suoi confronti del regime penitenziario del 41 bis. Al momento Alfredo è ancora detenuto nel carcere di Terni, nell'apposita sezione dedicata. Non sappiamo se questa è una destinazione provvisoria o se ad essa seguirà un trasferimento in altro istituto. Il decreto è stato disposto, come prevede la norma, direttamente dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale. Ricordiamo molto brevemente che il 41 bis è un regime penitenziario particolarmente afflittivo che prevede, onde impedire ogni forma di comunicazione, l'isolamento, l'assenza di socialità e di ogni attività interna, il silenzio, la censura della corrispondenza, un'ora di colloquio mensile col vetro divisorio e il citofono, quindi la registrazione del colloquio stesso, 10 minuti di telefonata al mese con un familiare autorizzato, costretto a telefonare dall'interno di una caserma dei carabinieri. Ai reclusi è fatto divieto di ricevere giornali e libri, preventivamente la gran parte della corrispondenza viene bloccata a causa dei suoi contenuti, inoltre non è possibile acquistare giornali e vi è una forte limitazione nella disponibilità di oggetti all'interno della cella, libri, vestiti, cibo, carta e penna contingentati. Non è la prima volta che un provvedimento del genere viene applicato a dei rivoluzionari. Nel 2006, quattro prigionieri delle Brigate Rosse furono internati in tali strutture. Una tra questi, Diana Blefari, suicidatasi nell'ottobre 2009, poco tempo dopo essere stata declassificata dal 41 bis. Questo è un precedente che, nonostante le mobilitazioni, non è stato ancora disarticolato. In queste prime ore di rabbia dobbiamo soffermarci su due questioni. Da un lato, prendiamo atto dell'attacco personale, fisico, a un compagno anarchico che in questi 10 anni non ha mai abbassato la testa, un compagno che ha rivendicato a testa alta di aver sparato alle gambe l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, l'ingegnere Adinolfi. Il fatto che non si sia riusciti a isolare Alfredo e che non si sia potuto zittirne il contributo rivoluzionario è stata una spina nel fianco per gli inquirenti. Ciò ha portato negli ultimi anni a ulteriori misure restrittive nei suoi confronti, quali la censura sulla corrispondenza e la notifica in carcere di un mandato d'arresto per operazione Sibilla, ultimamente, attraverso la quale le forze repressive hanno tentato di far sparire dalla circolazione un giornale e delle pubblicazioni, che nel corso degli anni hanno riportato gli articoli e i contributi del compagno. Ad Alfredo dobbiamo far sentire la solidarietà di un movimento che non è domo, che non lo ha dimenticato, che non lo lascia solo. Dobbiamo fare in modo che questa solidarietà rompa i divieti e spezzi l'isolamento. Dall'altro lato vediamo in questo fatto un precedente contro l'intero movimento anarchico. Occorre una mobilitazione internazionale efficace che faccia pagare allo Stato italiano il prezzo di questa ennesima scelta. In altre parole, il precedente non deve passare. La lotta rivoluzionaria però è sempre stata un passo avanti rispetto all'ambiguità del diritto e porta con sé chiarezza. Ciò è dimostrato dalle azioni intraprese contro il tentativo di avvicinamento al 41 bis, manifestatosi in particolare nel 2019 col trasferimento nella sezione S2 femminile nel carcere dell'Aquila. Davanti alla coltre di isolamento che lo Stato intende imporre a Alfredo, occorre riaffermare la solidarietà come necessità costante nella comunicazione tra rivoluzionari, elemento che in questi ultimi anni non è mancato a livello internazionale. Essere anarchici è difficile, ma non ci interessa se ciò è considerato reato o meno. Chi affama, sfrutta, sgancia le bombe sulle popolazioni sono gli stessi uomini e donne che si premurano di far rientrare l'anarchismo negli schemi del diritto, depotenziandone le tensioni, sopprimendone le possibilità di azione concreta. Questo trasferimento è anche un monito a tutti coloro che ritengono che non esistano libertà concesse da padroni governanti, un messaggio per chi, unendo pensiero e azione, intende distruggere lo Stato e il capitale. Occorre una mobilitazione capace di contrattaccare. Non possiamo e non vogliamo sottacere le responsabilità politiche e personali della ministra Cartabia. La giurista col suo provvedimento sembra aver deciso di anticipare di 20 giorni la sentenza della Cassazione nel processo Scrittamanent, prevista per il 25, processo nel quale Alfredo è stato condannato in appello a 20 anni di reclusione per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e strage, con finalità di terrorismo, strage con finalità di terrorismo, scusate, a cui vanno aggiunti 9 anni e mezzo del già menzionato processo per l'azione contro Adinolfi. In Italia il reato di strage è previsto anche senza morti e feriti in base alla potenzialità di un attacco esplosivo. Proprio il reato di strage potrebbe essere stato il grimaldello che ha permesso la disposizione del 41 bis nei confronti di Alfredo. Lo stesso reato di strage è imputato sempre nel processo Scriptamanent all'anarchica Anna Beniamino e in un altro processo all'anarchico Juan Sorroque. Questo a dimostrazione di come il precedente sia già ora potenzialmente gravido di conseguenze per altri compagni. Poi fa una considerazione sulla ministra che io adesso salto perché sennò la facciamo un po' troppo lunga. Contro il 41 bis, rompere l'isolamento, se provate a tapparci la bocca vi morderemo la mano. Contro la censura, perseveriamo nella propaganda anarchica, solidarietà rivoluzionaria con l'anarchico Alfredo Cospito. È un comunicato che trovate sul blog Fuori dalla Riserva e poi è girato anche in altri blog. Lascio adesso la linea alla regia. Allora, volevo ricordare che in precedenza abbiamo ascoltato e presentato inizio trasmissione e che poi si è susseguito durante l'intervento in sottofondo la band statunitense Tragedy dal loro ultimo album Fury che era uscito nel 2018, mentre ora ci stiamo ascoltando e che comunque ascolteremo ancora un brano per intero, questa band inglese è una delle band che ha dato, diciamo, vita al genere crust punk, è una band inglese, loro sono gli Extinction of Mankind, band che si era formata proprio inizi 90, e questo è il loro ultimo album datato 2017 che si chiama Storm of Resentment, e anche se devo dire che quest'anno è uscito uno split sempre in formato LP assieme alla band statunitense Misery. Comunque ascoltiamoci questo ultimo brano per The Extinction of Mankind. Bene, allora questi erano l'Extinction of Mankind, band inglese, tuttora in auge, che si è formata negli anni 90. E ora invece facciamo così tutto un salto, direi anche come genere musicale, anche del periodo, dato che questi inglesi erano del 2017, il loro ultimo album. andiamo proprio agli inizi degli anni 80, in quelli degli Stati Uniti, dove una etichetta, diciamo sconosciuta, la Discord, sconosciuta in quel momento, ha fatto uscire dei 7 pollici di band che sono, direi, diventate il simbolo del punk, anzi dell'hardcore americano, addirittura dello straight edge. Loro erano tra queste band i Minor Threat, o anche insomma band come Youth Brigade, State of Alert, e appunto è uscita qualche anno fa un CD che raccoglie proprio tutti i 7 pollici usciti nell'80, tra l'80 e l'81, per queste band. Sono ben 6 all'interno di questo CD, e noi comunque ci andiamo ad ascoltare una delle primissime uscite, anzi proprio la primissima, dei Minor Threat, che ormai credo sia impossibile trovare, robe per super collezionisti con un sacco di soldi per avere un disco che noi ce lo possiamo ascoltare in qualsiasi momento e permetterci anche di rompere questo CD volendo. Comunque, Minor Threat, 1980. We'll be right back. Bene, teniamo in sottofondo questa band statunitense che fece, diciamo, se vogliamo tranquillamente possiamo dire, possiamo usare il termine scuola nel punk hardcore americano, ma anche a livello internazionale. Loro appunto erano in Minor Threat, band Straight Edge, uscita per una etichetta che loro stessi crearono, la Discord, etichetta che tuttora esiste. E ovviamente prima ho fatto così questo cenno al fatto del valore che hanno acquisito certi dischi, e se devo dire se un valore hanno acquisito certi dischi del punk hardcore ormai dagli anni 80, sono proprio i dischi di queste band americane come i Minor Threat, che veramente hanno superato una valutazione oltre i 1000 e anche 2000 euro. Comunque, al di là di quello, che non ce ne frega, noi adesso abbiamo ascoltato proprio uno di quei dischi, e passiamo invece a una band italiana, esattamente una band che era di Trieste, che si formò a inizi anni 80, anche loro in un certo senso emulando questo genere dei Minor Threat, insomma del punk hardcore americano. Erano gli Upset Noise, che fecero anche dei Sette Pollici, ma poi sul finire degli anni 80, così alcuni cambi di formazione, ma neanche tanto, se non quella del cantante e del batterista, si buttarono un po' sul genere metal, e nell'89 fecero uscire questo EP 12 pollici che si chiamava Growing Pain, e che noi ora andiamo ad ascoltare uno o due brani. E loro appunto erano gli Upset Noise di Trieste. Yeah! Ecco, di nuovo qui per Zardins Magnetics a presentarvi il contributo, l'approfondimento di stasera, che ricordiamo è giovedì 12 maggio. Siamo sempre in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine, e appunto contributo di approfondimento di questa puntata è sulla rivolta indipendentista che si è svolta in Corsica nel mese di marzo, e da lì poi appunto c'è un contributo sulla necessità di lottare contro l'accentramento dello Stato. Allora, il primo è una registrazione, diciamo, da una trasmissione su una web radio, è un approfondimento di un compagno che era presente in Corsica. Il secondo è un celebre conferenza di Pasolini sui dialetti. Allora, io appunto voglio solo questo breve, diciamo, presentazione per dirvi che Pasolini aveva scrisse tra le altre cose: chi ha manipolato e mutato le grandi masse contadine operaie italiane è un nuovo potere che mi è difficile da definire, ma di cui sono certo che è il più violento totalitario che ci sia mai stato. Esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle coscienze, e per questo ho scelto appunto di questo contributo di Pasolini, che appunto era un intervento al liceo Palmieri di Lecce il 21 ottobre 75, e il titolo era Dialetto e scuola. Le musiche che ho messo all'intervento, che abbiamo messo all'intervento di sottofondo all'intervento di Pasolini, sono tratte da registrazioni di Alan Lomax fatte nel sud dell'Italia, mentre in sottofondo al contributo del compagno presente in Corsica è un concerto del cantautore Tim Buckley. Ultima cosa, vi presento anche la situazione, cioè due parole sul discorso della rivolta in Corsica. Diciamo, è successo che Ivan Colonna era un militante, diciamo, indipendentista, condannato all'ergastolo per l'omicidio del prefetto Erignac compiuto nel 1998. Ivan Colonna era nato nel 1960 e faceva il pastore, appunto era di nazionalità corsa. Il 2 maggio è stato aggredito da un concellino ed è stato soccorso solo dopo 8 minuti, e questo nonostante il fatto che avrebbe dovuto essere sottoposto a sorveglianza continua. Quindi lo slogan della popolazione corsa scesa in strada durante il mese di marzo era stato francese assassino per questo motivo. E il 21 marzo, appunto, dopo il coma, diciamo, Ivan Colonna ci ha lasciati ed è stato fatto il funerale. Poi comunque spiegherà al compagno, diciamo, come sono svolti i fatti, e non posso fare altro che augurarvi buon ascolto. Ciao, ci senti? Sì, vi sento, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Sì, ok, ciao a tutti e a tutte. Parto proprio dalle cose che dicevi tu, Pasca, e aggiungo una cosa che mi sembra che non ho sentito e che però secondo me ha pesato molto nell'andamento di questa rivolta, e cioè il fatto che

professori, insegnanti che abbiano la coscienza che avete voi è una, solo una piccola elite. Nella maggioranza questi problemi non se li pongono nemmeno. Ecco, il grande corpo degli insegnanti è affiancata alla televisione per imporre quel famoso italiano che tra l'altro non è nemmeno più il bel fiorentino letterario che poteva essere un ideale in qualche modo, no? È l'italiano orrendo della televisione. Quindi i segni rossi, i voti bassi in italiano, i quattro in italiano, in realtà nelle scuole appena, non dico elementari, ma nelle scuole superiori non si danno più, perché i temi sono infarciti di dialettismi, che sarebbe ingiusto a questo punto, perché bisognerebbe anzi dare un 9 a un tema in cui ci sia una contaminazione tra italiano e dialetto. Bisogna dare 3 a chi parla come mai buongiorno, questa è la realtà, ecco. E allora voglio dire che la situazione è completamente rovesciata, e allora forse per quel che riguarda le scuole elementari o quella tremenda scuola d'obbligo, in qualche località italiana rimasta abbastanza intatta, il discorso di Buratti vale ancora. Ma per quel che riguarda la scuola in generale, temo che questo discorso purtroppo debba essere rovesciato. E allora, l'insegnamento o la protezione del dialetto è diventato da una parte un fatto di tradizionalismo, di conservatorismo, che io considero perfettamente sano, per le ragioni che esiste una destra sublime, lo ritengo perfettamente sano, oppure deve diventare profondamente rivoluzionario, cioè deve diventare addirittura qualcosa come la difesa della propria lingua per i paesi baschi, ecco, oppure la difesa della propria lingua per gli irlandesi, insomma deve arrivare al limite del separatismo, che sarebbe una lotta estremamente sana, perché questa lotta per il separatismo non è altro che la difesa di quel pluralismo culturale che è la realtà di una cultura, insomma, ecco. Cioè, faccio prima un'osservazione che ti toccherà un pochino. Cioè, da qualche tempo io vado pensando che in Italia si sta formando un nuovo tipo di chierico. Ed è il progressista. E la vittoria del Partito Comunista rende questa cosa abbastanza minacciosa. Ora, io continuo a considerarmi imperterritamente un progressista, è chiaro che tutte le azioni che voi fate sul mio ritornare indietro sono tutte follie, perché non sono, venitemela a dimostrare, dove ho scritto che bisogna tornare indietro, dov'è? Vedete punto per punto, io punto per punto vi dico no, avete letto male, vi siete sbagliati, non intendo affatto tornare indietro, appunto perché mi pongo i problemi più attuali, vivo i problemi del momento, non sono uno scienziato che fa delle ricerche, non sono un pedagogista, sono uno scrittore, quindi quello che io dico in veste di pedagogista o di saggista lo scrivo perché lo vivo, e vivendo non posso vivere che l'attualità nel suo momento più attuale. Altrimenti dove pescherei i miei argomenti? Le pesco proprio nel massimo dell'attualità, ecco. E allora, secondo me questo nuovo chierico, che sarebbe il progressista, che comincia a diventare egemone appunto della cultura nazionale, e sta trasformando quegli impulsi che erano autentici in impulsi retorici, ecco, e lui semmai l'antiquato. È l'antiquato perché non tiene conto dei cambiamenti profondi e totali che sono avvenuti in questi ultimi 10 anni e che sono dovuti a un nuovo tipo di capitalismo. È inutile continuare a combattere contro il vecchio tipo di capitalismo. Urrà, urrà, urrà, urrà, urrà, urrà, uzzumò me misa ditta già, o barbaruce, o barbaruce, urrà, urrà, urrà, urrà, urrà, urrà, urrà. La verità però mi sembra di aver già risposto a queste cose qui, insomma articoliamo il tuo intervento in 2 parti, una parte un po' ingenuamente tu hai preso alla lettera una cosa che io ho detto come paradossale, cioè che a un certo punto i greci qui di Rocudino, Calimera, prendono il fucile in mano e facciano come gli indipendenti corsi. È una cosa paradossale che ho detto, devi prenderla come paradosso. E quindi hai portato la tua interpretazione ingenua di quello che ho detto fino a ipotizzare allora un'indipendenza anche individuale, in quanto che ogni individuo ha il suo gergo privato, il suo dialetto, come giustamente dici. Ma perché no? Effettivamente, perché no? A un certo punto il momento anarchico che c'è in noi, che per fortunatamente in tutti noi, cioè il momento eversivo che c'è in tutti noi, anche in chi non lo sa, e che si manifesta soprattutto nei poeti, consiste proprio in questo, nel rivendicare la propria totale e assoluta indipendenza, il proprio totale e assoluto separatismo, come individuo, perché no? Da ballo da tamella, io io io, la rizza di metti stingoggio, mascarato, rizza di metti stingoggio, mascarato, da ballo da tamella, io io io, da ballo da tamella, io io io, ci facista condolanza. Sì, allora rispondo molto brevemente, una risposta che può essere forse una specie di conclusione. Che mi sembra abbastanza rilevante, insomma. Cioè, fino a ieri il problema del dialetto e del rapporto della cultura popolare con la cultura degli insegnanti, cioè con la cultura della classe dominante, era di due tipi. O era di carattere archeologico, filologico, conservatore, eccetera, eccetera, raccolta di canti, oppure era di carattere progressista in un senso retorico della parola, cioè presupponeva la realtà immutata delle classi popolari, un rapporto dialettico tra cultura popolare e cultura borghese. Ecco, oggi siamo usciti, mi sembra, attraverso i nostri discorsi, siamo usciti da queste due possibilità, ponendo una possibilità, un modo nuovo, che è quello che hai accennato tu, cioè non essere né archeologici nel senso conservatore, anche buono della parola, né essere progressisti nel senso retorico della parola, ma prendere coscienza di tutto questo, prendere coscienza che il dialetto non è più quello che era 10 anni fa, ma è un dialetto parlato dal calabrese a Torino, oppure il problema dialettale di Corleone, cioè prendere coscienza che i fenomeni dialettali sono completamente diversi, prendere coscienza che sono in questo senso rivoluzionari, e i giovani che dici tu, che usano il dialetto, lo fanno proprio perché anche a loro è arrivato, magari non con estrema consapevolezza, ma esistenzialmente, la necessità di lottare contro questo nuovo fascismo che è l'accentramento linguistico e culturale del consumismo. Figliuzza bella certo, occhio abbasati, dopo sposate voi ne venite. Nanna ninna ninna nanna ninna nanna nanna nanna ninna ninna nanna ninna nanna nanna. Bene, su questo brano di questa band torinese, gli Always, dal loro ultimo album che si chiama L'odore dell'asfalto, le sere d'estate, ci salutiamo. Ricordiamo che siamo, cioè che state ascoltando e che abbiamo ora completato la trasmissione Tardins Magnetics, che va in onda qui dai studi di Radio Onde Furlane ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi qui situati a Udine, e che quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Anche se prima vi ricordo i nostri contatti, che sono, per chi volesse scriverci, il contatto di posta elettronica liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre potete ascoltare, cioè riascoltare questa trasmissione o comunque anche tutte quelle avvenute nelle settimane passate nel blog, nel podcast, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto anche questo, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ciao a tutti e vi lascio su questo ultimo brano degli Always di Torino. Ciao a tutti.